Enthusiasm. Oh, Conte, deciditi, eh. Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Siamo qui, signori, 9 e 8 minuti con Leonardo Manera, che in realtà per credo tutta la settimana si collegherà in Vestaglione. Vestagliona Manera, l'entopede Vestagliona Manera. Niente, ieri è andato dal medico, questo per la tutela della privacy. Ci informerà lui, credo, alle 9.30. Il medico gli ha detto praticamente di stare in quarantena. Vedete voi, fate voi. Forse è incredibile, potremmo avere uno scoop in casa, il primo caso conclamato di coronavirus. Sto scherzando, ovviamente, con Leonardo l'entopede sto scherzando, Vestaglione sto forse scherzando, Manera. Allora, siamo qui intanto con Filippo Aureggi in regia, Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti ed Elisabetta Fusconi in redazione. Castiglia con il cross basso, Leao sì. All'interno dell'area di rigore per Ibrahimovic, la piazza Ibrahimovic ed esplode San Siro perché arriva. Vabbè, con calma, con calma, gli ha buttato dentro un altro Ibrahimovic, ha segnato due volte il turco, incredibile dictu. Vabbè, dai, siamo lì, prenderemo la classica tradizionale musata e facciata forte contro la Juve, va bene così, a noi piace stare dove stiamo, così in una brodaglia un po' calduccia, ma non tanto. Allora, signori, abbiamo tante tematiche da affrontare, anche il tema del coronavirus in maniera seria, parleremo di... subito di Salvini e la sua citofonata, ci collegheremo anche con la Cina, parleremo di edicole, le edicole, parlerò anche ancora oggi, devo fare giorno 2 di mia calma zen per cercare di risolvere il problema di domenica del blocco totale del traffico che il mio sindaco Sala ha stabilito. Mamma, ma che sindaco, ma che ti è venuto in mente? Ma ci sono degli spiragli, ci sono dei possibili ricorsi al TAR. Io che ho accusato sempre dire basta il TAR, TAR, forse bloccano tutto, TAR, dai che ce la facciamo, stavolta vado a fare il ricorso io al TAR, dov'è l'indirizzo? Mi date sfida Lucchetti, mi dai un indirizzo del TAR, vado lì al TAR, vado a stringere la mano ai giudici del TAR, hanno un volto i giudici, mi raccomando, bloccate questo blocco del traffico, annullate il blocco del traffico, non lo so, forse ce la facciamo, forse no, vai. Enthusiasm about the future. Dai, adesso dire è un artista, non sa cosa sia l'etica del lavoro, Manera. Ma no, certo che lo sa. Mandategli immediatamente la visita fiscale, ma è già andato dal dottore. Vabbè, adesso andiamo a vedere. Comunque, in via Filippo Corridoni 39 c'è la sede del TAR, Tribunale Amministrativo per la Lombardia. Allora, ne parlo tra poco. Prima, la cosa che mi ha colpito oggi, allora, io non sopporto più le ipocrisie, adesso inizio a dire le cose contro le ipocrisie, prima o poi arriva la responsabile dei programmi, Alessandra Scaglioni, mi caccia a calci nel sedere, non ne posso più. Allora, avete sentito la notizia che stanno per sbarcare a Taranto, sta per arrivare a Taranto la nave con oltre 400 immigrati a bordo. Ora, siccome a me non frega niente né di essere pro o contro Salvini, chi mi conosce lo sa, ho le mie idee, ma se Salvini dice una cosa positiva dico questa è una cosa positiva, se dice una cosa negativa dico negativa, questo vale per tutti. Su questo, cioè che ci sia un'ipocrisia, Salvini non ha tutti i torti. Cioè, questi migranti erano da 4 giorni al largo. Ne avete sentito anche mezza notizia? C'era da votare in Emilia-Romagna, c'era da votare in Calabria, c'era da tenere al largo, aggiungo, sotto sequestro, comunque al largo, lontani dai riflettori, lontani dalle telecamere patinate pro governo, questi migranti non dovevano essere fatti vedere, si doveva votare, no? Dovevano essere nascosti. E questo che cos'è? Non è giocare sulla pelle dei migranti? Adesso, casualmente, passate le elezioni, possono sbarcare. Passate le elezioni, sbarcano. Non è ipocrisia furente questa? È ipocrisia. Io penso così. Ma ditemi la vostra all'800240024. Cioè, l'avesse fatto Salvini, ministro dell'interno, sarebbe successo il putiferio. Salvini infatti è arrabbiato così. Su questo sbaglia una cosa, perché effettivamente lui è accusato di averli tenuti su una nave militare, quindi la nave militare italiana vuol dire una nave dello Stato italiano. Però vabbè, non voglio entrare in queste disquisizioni, ci saranno forse i processi, non lo so. Però Salvini dice questa è ipocrisia. Sabato, domenica, lunedì, martedì. Quattro giorni prima di concedere un porto sicuro a questa ONG, li denuncio. Per sequestro di persona, il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Interno. Andrò a processo perché ho bloccato per quattro giorni lo sbarco da una nave militare di 131 immigrati? Ebbene, l'aver tenuto a bordo per tre giorni, non 131, ma 400 immigrati, allora, se siamo in un paese dove le regole valgono per tutti, è sequestro di persona. E quindi ci troviamo in tribunale col signor Conte e la signora Lamorgese e vediamo se il criminale è solo Salvini e se la legge è uguale per tutti. Vabbè, adesso io non lo so se ci sono delle differenze, ci saranno delle differenze, non lo so, però il principio, cioè il dire oh ragazzi, ma se una cosa è ipocrita che la dica Grillo, che la dica Salvini, che la dica Berlusconi, che la dica Zingaretti, è ipocrisia. Aver nascosto questi 400 migranti è ipocrisia. Adesso possono sbarcare. E dai, su. A proposito di ipocrisia, signori, ieri c'era una signora, visto che è sposata e poi dopo i 18 anni sono tutte signore, una signora che mi faceva la morale qui per la questione del blocco del traffico. Questa signora risponde al nome e cognome di Elisabetta Fusconi. Mi faceva la morale sulla questione, lei radical chic, lei che va in giro in deltaplano, lei che vive nel centro di Milano, quindi gira tutta per Milano tranquilla, in skateboard, in parapendio, lei che voglio dire no global ma sì logo, ovviamente, perché si vive solo nella cerchia interna dei navigli. Mi faceva tutta la morale sulla questione del traffico, il blocco del traffico. Tra l'altro ho scoperto che c'è un ricorso da parte dell'associazione Muovermi, non la conosco, che farà un ricorso urgente al TAR, e io dico Muovermi, oppure c'è la regione che si opporrà al blocco del traffico, regione. Però questa è una questione, mi faceva la morale Elisabetta Fusconi, e poi abbiamo scoperto che sta cercando di insabbiare la notizia, ma molto probabilmente ieri è venuta al lavoro con una macchina Euro 4, cioè illegale, allora, diesel illegale. Tu stai millantando e stai denigrandomi. Intanto anche ai peggiori delinquenti è garantito un diritto alla difesa. Sì, buongiorno, prego, quale sarebbe buongiorno, la tua difesa? Buongiorno. Quale sarebbe la tua allora, difesa? Allora, diciamo che effettivamente 4, per alcune diesel. Ore ho avuto il dubbio di aver guidato un'auto Euro 4, quindi di essere nell'illegalità, ma per mi faceva la morale. Sì. Allora, tra l'altro, un uso eccezionale dell'auto, come tu ben sai, io mi muovo con la bicicletta. Detto questo, non è questo l'interessante, ma sai che il binomio donne motori, sì, insomma, vabbè, è un binomio che è un po' stride, ecco, io lo impersonifico in maniera eccellente. Ignoravo se fosse un'auto Euro 4 o Euro 5. Ero Euro 5, quindi cosa vuol dire ero Euro 5? Ieri mi muovevo su un'auto Euro 5. Ma quindi sei detto potevo... che eri Euro 4? No! Facevi la morale a me? Ho fatto delle verifiche. Ed eri la donna più inquinante di Milano ieri. Ma che gira... fosse anche che mi aggirassi per Milano con un Euro 4, quindi illegale, irrispettosa delle regole. Sì, e fai la morale comunque sulle regole. Comunque sì, rientravo pienamente nella deroga, e leggo testuale dal sito sempre di Regione Lombardia, la deroga. Sito. Per i veicoli appartenenti a soggetti privati che svolgono pubblico servizio o pubblica utilità. Scusa, eccomi qua, sono qua, sono io, presente. Scusa, il pubblico servizio e la pubblica utilità che svolgi tu? Io, ce lo spieghi in 10 secondi? Io do retta a te tutti i santi giorni, io faccio un lavoro usurante, io rischio il burnout, io svolgo una mansione, ti tengo a bada, anche con poche soddisfazioni peraltro. Direi il messaggio definitivo, la Fusconi come tutti gli svizzeri, predica bene e razzola male, le tolgo l'amicizia su Facebook, su questo Fusconi sarà solo contento. Trova ingiusto. Vai a lavorare a piedi e non Euro 4 spacciati poi per Euro 5 facendo la morale qui a chi chiede il blocco del traffico. Va bene, dai, il primo ospite che abbiamo con noi, torniamo sulla questione Salvini. Torniamo non sulla questione migranti, ma sulla questione ormai celeberrima della citofonata di Salvini. Secondo alcuni quella citofonata al pilastro a Bologna gli ha fatto perdere le elezioni, io non lo so adesso, non è che possiamo dire questo, però quel video della citofonata che è diventato celebre quando Salvini ha citofonato una famiglia indicata come di presunti spacciatori, è stato tolto da Facebook, perché l'avvocato Katie Latorre, che è con noi, buongiorno avvocato. Buongiorno a tutti voi. Katie Latorre, che è l'avvocato del ragazzo o della famiglia, questo vorrei capirlo nello specifico. Rappresento il ragazzo. L'avvocato del ragazzo, che è minorenne, ricordiamo, 17 anni, ha chiesto che venisse tolto e così ottenuto per violazione della privacy da Facebook, ma anche da tutti gli altri social. L'avvocato Latorre, In realtà noi stiamo agendo per la rimozione di questo video un po' dappertutto, ma è praticamente impossibile. Una lotta contro un mulino a vento, perché è stato condiviso da decine di migliaia di persone, ha girato in tutti gli organi di stampa e quindi ha una presenza sulla rete che probabilmente, diciamo, ci costerà anni di lavoro perché venga tolto. No, infatti, guardi, io qua abbiamo anche il dubbio, perché giustamente mi guardavano dall'altra parte del vetro in regia a dire: mandiamo l'audio. Non lo so, cioè, possiamo mandare l'audio, avvocato Latorre, di questa telefono, di questa citofonata? Penso di sì. No, non guardi, credo. Sicuramente coprendo con un bip il nome, perché sennò è un guai. Vabbè, ma tanto lo conoscete, non c'è bisogno. Insomma, è quel video e quell'audio della citofonata di Salvini. Quali sono i motivi che l'hanno spinta a fare questa richiesta e che per i quali sono stati accolti? Ma guardi, i motivi sono molto semplici e poi riguardano tutti i cittadini, tutti noi. Non si può citofonare a qualcuno in diretta Facebook o davanti ad altre persone, dirne il nome, il cognome, la presunta origine, anche se Yaya è italiano, insomma viene additato come tunisino, e in generale non si può accusare qualcuno di qualcosa che non ha commesso. No. Sì, fin tanto che non l'ha commesso, cioè non è solo una segnalazione. Sa che su questo, per esempio, risponda ecco a un ascoltatore che ci manda un messaggio in diretta e dice: bravo, l'avvocato sta dalla parte di Caino. Evidentemente ha già deciso che la persona a cui Salvini ha citofonato ha compiuto qualcosa, anche se... Io posso dire solo che auguro all'ascoltatore di non essere mai un Caino, perché così facendo, cioè se qualcuno viene accusato senza aver fatto nulla, possiamo essere tutti Caini, no? Cioè, nel senso che può capitare a tutti un giorno di svegliarsi ed essere accusati di qualcosa che non abbiamo fatto, se non lo abbiamo fatto. Non so se è la sua materia, cioè lei interviene per la questione della citofonata, però sui giornali poi si è letto di tutto. Devo dire, alcuni giornali sono andati a scavare, a cercare di capire nel passato se qualcuno in quella famiglia avesse dei precedenti penali. Qualcuno ha detto sì, li ho avuti forse, ma adesso no, magari era il fratello maggiorenne, magari era il padre, se ne sono sentite di tutti i colori. Ci può dire se quella famiglia ha dei precedenti penali o qualcuno in quell'appartamento li ha? Ma sì, guardi, non è, cioè, un fatto noto, nel senso che il fratello che vive altrove, in un'altra città peraltro, ha dei precedenti per rissa. E quindi voglio dire, beh, cosa c'entra non è, questo? Non è, non è spaccio. Sì, ma cosa c'entra questo? Cioè, non so, io sono cresciuta in Sicilia e andavo a scuola con dei ragazzi cui padri, cui genitori avevano dei precedenti per criminalità organizzata. Sì. Dobbiamo far pagare i figli e i fratelli le responsabilità penali degli altri. E lo stesso senatore Salvini è diciamo, plurindagato, ma nessuno di noi si sogna di andare sotto casa sua e di additarlo come un sequestratore di persona, perché comunque è indagato, ma comunque fino a un terzo grado di giudizio, un giudizio definitivo, si è innocente. In questo caso parliamo di un ragazzo che non ha nessun precedente, è incensurato, non è mai stato indagato per nulla e la cui colpa è semplicemente l'accusa da parte di una donna, sì, che poi l'ha motivata in questo modo, perché si veste troppo bene, sì, per essere il figlio di un... Sì, alle night si veste troppo bene, quest'estate è andato 15 giorni in vacanza in Sardegna, quindi sicuramente faccia. Va bene, ma lo denuncerà? Cioè questo ragazzo denuncerà Salvini? Guardi, noi agiremo legalmente, lo abbiamo già fatto, la rimozione del post è un primo tassello, sì, sì, di una strategia giudiziaria che insomma che noi vorremmo mettesse non al banco degli imputati il senatore Salvini, di modo che possa dire appunto il colmo essere denunciati da uno spacciatore, cioè, di continuare anche questo refrain, ma semplicemente fare come succederebbe per qualsiasi libero cittadino che di sera ci molesta a casa nostra, sì, pagare per i danni. Pagare per i danni, un'azione civile. Esatto. Va bene. Esatto. Grazie avvocato Chieti La Torre, ci sentiremo, ci aggiorneremo, insomma, che vediamo questa vicenda come va. Intanto insomma, il video è stato rimosso da Facebook e dai social per violazione della privacy. Allora, sono le 9:25 minuti, sono le 9:25 minuti. Da qualche giorno cerchiamo di informare senza fare del terrorismo, senza spargere, come dire, delle informazioni sbagliate, quindi rivolgiamoci a chi ne sa di più sulla questione del coronavirus. Saluto con piacere Roberto Burioni che torna con noi. Buongiorno professor. Buongiorno a tutti. Eccoci. Gli ascoltatori. Allora, senta un po' Burioni, io avrei 2000 domande da fare, però insomma, le chiedo questo: perché quando noi, e lo abbiamo fatto collegandoci con un'italiana che vive a Wuhan in questo momento, tra l'altro è una veterinaria, docente lì, e ci ha detto, ma guardate, forse c'è un po' di terrorismo sui giornali, cioè passiamo tempo a tranquillizzare i nostri familiari in Italia perché leggono i giornali. Sì, certo, la situazione, come dire, è da tenere sotto controllo, ma non terrorizziamo così. Allora, è davvero una cosa grave, seria? Io penso che non ci siano motivi di panico, che non ci sia nessun motivo di terrore, ma non prendiamoci, non siamo in Cina. E io dico quello che mi pare, sì, una quarantena di 51 milioni di persone è una cosa che non si è mai vista nella storia dell'uomo. Sì. Questa mattina la British Airways ha chiuso i voli per la Cina, certo, e la Toyota ha chiuso le fabbriche, per cui non c'è da avere terrore, non c'è da avere panico, soprattutto perché qui in Italia i casi non ci sono, ma non prendiamoci in giro, è qualcosa che deve essere seguita con grandissima attenzione, e se io avessi una persona cara in Cina non sarei per niente tranquillo, devo essere sincero, per cui non dobbiamo terrorizzare, non c'è nessun motivo di panico, soprattutto si sentono queste sciocchezze che vengono discriminati i cinesi, brutte cose fatte ai cinesi o alle persone di aspetto asiatico, gente che evita i ristoranti cinesi, quartieri cinesi, non ha senso, questo è proprio un comportamento che non ha senso. In Italia il virus non c'è, speriamo che non arrivi, dobbiamo fare di tutto perché non arrivi e dobbiamo fare di tutto perché nel caso malaugurato arrivasse, cosa possibile, e non si diffonda l'infezione come ecco, è successo in Cina. A questo proposito, che non arrivi, oggi leggo sul quotidiano nazionale Notizia Locale che uno studente cinese che arriva dalla zona di Wuhan e che studia all'università di Pavia è arrivato e sta bene, però siccome c'è un periodo di incubazione, adesso lei ce lo spiega, certo. Questo ragazzo è stato invitato a dire guarda però stai a casa tua per almeno 10-15 giorni e non venire all'università, e lui ha collaborato. Non mi sembra però un cordone sanitario molto, come dire, efficiente se così è successo. Allora, noi dobbiamo prima di tutto capire che cos'è questa malattia. Questa malattia è una malattia che sembra essere, per quello che sappiamo, perché dalla Cina i dati non arrivano in maniera estremamente completa e trasparente, quindi le valutazioni più affidabili sono quelle che vengono fatte all'estero sulla base dei casi che si verificano all'estero. Ebbene, quello che sembra che possa accadere con questa malattia, che è una cosa che rende più difficile la battaglia, è che al contrario dell'influenza, malattia nella quale uno si infetta oggi, domani si ammala. E invece con questo coronavirus uno si infetta oggi, tra 10 giorni si ammala, o fino a 14 giorni. Mm. Sembra che negli ultimi giorni dell'incubazione, quindi quando ancora non ci sono sintomi, il paziente possa essere infettivo. Quindi, siccome noi non abbiamo vaccini, non abbiamo farmaci, abbiamo soltanto lo strumento del contenimento fisico e sociale del virus, questa è stata una buona idea. Diciamo che dirgli di stare a casa e di stare attento se ha dei sintomi respiratori, io lo trovo una cosa giusta, e anche ha fatto bene il ragazzo a collaborare perché per esatto. Tutti della comunità. No, ma voglio dire, non c'è stata un'autorità sanitaria, cioè se non avesse collaborato o se questo ragazzo andasse in giro per dire fosse infetto. Tenga presente che però noi di questo virus sappiamo poco e sappiamo in maniera progressiva. Questa notizia che ci ha fatto capire, questo dato scientifico che ci ha fatto capire che i virus possono essere trasmessi anche da persone asintomatiche, si è visto ieri l'altro in Germania, quindi sì. Cioè, bisogna anche spiegare alla gente che le cose variano e si conoscono in maniera progressiva. So che molte aziende però già dalla settimana scorsa stanno chiedendo ai loro collaboratori che tornano dalla Cina di lavorare da casa col telelavoro per un paio di settimane. Questa è un'ottima idea, senz'altro. Senta, ho letto che la mortalità in realtà è bassa per chi contrae questo. Ci spiega chi è che muore, per quanto se ne sappia? Allora, la mortalità purtroppo non è bassa, non perché è bassa. Sembra essere dai dati il 2%. È un dato basso, insomma, per niente, è più o meno quello della spagnola del 1918. Ah, che sterminò un terzo della popolazione. Però perché è un dato che deve essere preso con le molle, per fortuna? Perché c'è la forte sensazione e il consenso da parte dei ricercatori e degli studiosi come me che i numeri di casi che ci arrivano dalla Cina siano fortemente sottostimati. E questo succede spesso all'inizio di un'epidemia, perché vengono contati solo i casi più gravi, chi lo prende in maniera lieve se ne sta a casa e non va da nessuna parte, per cui i casi dovrebbero essere circa, non so, 5.000, io non li leggo neanche più quelli cinesi perché sono di poco significato, però bisogna sperare che la mortalità sia molto più bassa di quella che invece è indicata ora. Anche questo lo conosceremo con il tempo, per fortuna al di fuori della Cina finora non è morto nessuno. Sono naturalmente più a rischio le persone più deboli, però abbiamo assistito anche alla morte di persone che erano in perfetta salute, per cui bisogna dire che mentre l'influenza, per esempio, uccide le persone molto spesso provocando una polmonite batterica, cioè le indebolisce e fa venire loro una polmonite batterica che possiamo curare con gli antibiotici, in questo caso invece è il virus che arriva direttamente nelle parti più profonde del polmone, causa una polmonite virale che è più grave e contro la quale non abbiamo farmaci se non il supporto del paziente. Ecco, per tra l'altro, guarire. Professor Burioni, io mi pare di aver colto una sua dichiarazione, lei che, voglio dire, è sui vaccini, non rinfocoliamo tutte le polemiche, non è il caso, ma comunque lei è uno studioso da anni di vaccini, quindi è l'ultima persona al mondo che può dire qualcosa contro i vaccini. Però ho capito che lei ha detto in questo caso il vaccino non ha molto senso perché non ci sarebbe il tempo per farlo per essere efficaci, insomma, in questo. Ma io naturalmente spero di sbagliarmi, spero di cuore di essere in errore, perché anche gli esperti si sbagliano, e spero che questo sia uno dei casi. Ma sulla base della mia esperienza, la messa a punto, la sperimentazione, la produzione e la somministrazione di un vaccino prenderebbero tempi, anche saltando tutte le sperimentazioni possibili, tutti i passi di sicurezza, prenderebbero talmente tanto tempo da farci pensare che questa epidemia, che è in corso attualmente, non tra un anno, dobbiamo affrontarla con i farmaci. No, perché farmaci non abbiamo nessun farmaco, noi abbiamo... Potremmo avere un colpo di fortuna che un farmaco utilizzato per qualcos'altro possa funzionare contro questo virus, ma è un colpo di fortuna. Scusi, però il vaccino, che poi è un farmaco, no, i farmaci no, come si affrontano? Abbiamo un solo strumento che è molto importante, che secondo me è quello che dovrebbe essere potenziato con grandi investimenti, perché potrebbe essere una carta vincente. Noi sappiamo diagnosticare la malattia, che non è poco. In questo momento noi sappiamo diagnosticare la malattia in qualche ora, 2-3 ore. I ritardi che ci sono, perché ci vogliono 2 giorni, sono ritardi dovuti all'organizzazione, per cui io ritengo che noi dovremmo far sì che la diagnosi sia il più veloce possibile. Questo significa isolare il paziente ed evitare contagi. L'ideale sarebbe avere qualcosa che fa la diagnosi in 15 minuti, perché noi ci potremmo mettere all'aeroporto, far aspettare le persone in una stanza e fare a tutte l'esame. Ecco, mentre la fattibilità del vaccino è veramente piuttosto remota, anche se, ripeto, spero vivamente di sbagliarmi, questa invece è qualcosa che potrebbe essere fatto e sarebbe molto più veloce da usare, perché un test diagnostico non deve passare attraverso degli studi di sicurezza. Sì. Facendo un vaccino e non facendo gli studi di sicurezza rischieremmo di ammazzare qualcuno col vaccino, perché poi non è che sono inutili gli studi di sicurezza. Ma quindi detto da lei, professor Burioni, insomma, con estrema correttezza, dire, insomma, dobbiamo prevenire al meglio, perché gli strumenti per curare in questo caso... No, noi abbiamo in questo momento 2 strumenti, l'isolamento delle persone e la quarantena, come si faceva una volta, e la diagnosi che dobbiamo rendere il più veloce possibile. Okay. E questo è quello che possiamo fare. Abbiamo un vantaggio immenso noi, e mentre i cinesi sono stati presi in contropiede da questa infezione, e ci sono stati dei grossi ritardi, perché dai primi casi all'allarme è passato molto tempo, ci sono stati anche alcuni comportamenti poco coerenti delle autorità locali che hanno messo in quarantena una città di 11 milioni di abitanti, ma 4 giorni prima avevano organizzato un mega banchetto per battere un record del Guinness dei primati. Certo. Ecco, noi abbiamo un vantaggio, noi ce lo aspettiamo questo virus, per cui dobbiamo attrezzarci. Io ritengo che l'Italia stia facendo bene, io penso che il ministro stia facendo bene, stiamo però pronti al fatto che potrebbe anche, di nuovo, fino a non ci sono virus in Italia, quindi non c'è nessuna precauzione da prendere, se non quella di non andare in Cina, però potrebbe arrivare. Allora dobbiamo farci trovare pronti, ma io devo dire, trovo una certa prontezza da parte dei nostri sì. Certamente si può fare di più, si può fare meglio. Sostengo che noi dovremmo creare una rete parallela dedicata solamente a questo virus di unità mobili che possano andare a casa del paziente che non si deve muovere. Il paziente che è tornato dalla Cina e si sente male non deve muoversi. Certo. Dovremmo andare noi da lui con una unità mobile che può fare il prelievo istantaneamente nel tempo verificare. Più breve possibile, sapere se è infettato o no, perché se è infettato dobbiamo muoverci a rintracciare i suoi contatti, isolarli, e in questo caso il tempo è fondamentale. Va bene. Perché questo è, però niente panico, però neanche dire è una roba di niente, è chiaro. Io leggo dei medici che la mortalità è bassa del 3%, mi viene da ridere, perché evidentemente la mortalità è bassa del 3%, se la malattia è molto rara. La rabbia ha una mortalità del 100%, però è molto rara, in Italia non c'è per niente. Questa potrebbe essere una malattia, è una malattia che si diffonde molto, quindi anche una mortalità bassa sarebbe preoccupante. Io spero, però la mia sensazione, di nuovo, questa volta spero di essere nel giusto, è che quando avremo i dati completi la mortalità sarà più bassa di quella che sembra adesso, però non sarà trascurabile. Va bene, professor Burioni, intanto la ringraziamo, ci sentiamo presto. Mi sembra che le informazioni siano state molto molto chiare. Un attimo di informazione sul traffico. No, il traffico, la pubblicità. Uno, nessuno, 100 Milan. Alessà, buongiorno. E per quanto riguarda quella nave, devo dire sempre la solita storia, che c'hanno la faccia come il culo. Ciao, Alessà. Ma che cosa dici, scusami? Ma siete voi l'informazione? Ma Radio 24 ne ha parlato? Anche lei è serva dei padroni? Serva dei padroni. La voglio vedere, la denuncia serva a Conte e alla Morgese. Avanti, avanti, Salvini. Stamattina, mentre facevo i miei 10 km mattutini di corsa alle 4:30, pensavo, ma pensa te, Milan e Manera sono pagati per dire delle stupidate alla radio. Incredibile. Ecco, poi profumatamente deve aggiungere, caro ascoltatore, in particolare Leonardo Vestagliona Manera. Leonardo! Hai indovinato, buongiorno, sono in pigiama con la mia vestaglia multicolore, poco alla volta comincio a migliorare, ma ieri sono andato dalla dottoressa, molto gentile, molto brava secondo me, e mi ha detto che insomma devo stare a riposo ancora qualche giorno. Sì, ma non ti ha detto di stare in isolamento, e a casa, barricato, no, con la mascherina? No, non ti ha chiesto i tuoi contatti precedenti? No, tutto a posto. La mia influenza, che è un'influenza, ma è un po' severa, quindi meno diciamo, mi espongo all'esterno, quindi luoghi affollati, metropolitane, eccetera, meglio è. Ecco, meglio, quindi io per seguo te soprattutto. Ligio. Sono ligio ai consigli della dottoressa. Com'è che ti hanno visto a bere dei grandi spritz ieri alle 11:10 al bar Jimmy? No, guarda che mai, alle 11:10 del mattino. No, alle 11:10 del mattino. No, non è vero. No, sono dovuto uscire ieri sera a fare una cosa, ma poi sono rientrato subito. Ecco, quindi sono ligio al mio dovere. Che cosa? Ma fatto? Sai che se c'erano delle prove che dovevo andare per forza a fare. Sì, anche morto, non hai mandato la bara alla lettiga. Sì, no. Vabbè. Ma sai che sentire Burioni non mi ha rassicurato. No. Non mi ha rassicurato. Effettivamente, sì, no, niente panico, però ha detto chiaramente che il vaccino spera di sbagliarsi, ma in questo caso non c'è il tempo per farlo. Ecco, E non c'è il tempo, ci vorrebbero magari 2 anni, magari con tutte le sperimentazioni, anche saltando, dice lui, delle fasi, però rischieremo poi di uccidere qualcuno col vaccino. L'ha detto in maniera molto chiara. E tra l'altro poi il problema è non rassicura questa cosa, perché ha detto che poi ci sono sicuramente più casi di quelli di cui si sta parlando adesso. E poi la cosa brutta qual è? Sì. Non è come qua ai tempi negli anni 80, no? I primi anni in cui c'era l'AIDS, che dicevi vabbè, non c'è ancora nessuna cura, però se io ho dei comportamenti virtuosi non mi ammalo. Qui non dipende neanche da noi. No, guarda, cioè, allora ti vorrei leggere appunto di questa notizia. Ti ricordo, c'è uno studente cinese che è arrivato dalla zona di Wuhan, studia all'università di Pavia, e dalla sua tutor che lo segue è stato accompagnato a casa e gli hanno detto, guarda, visto che vieni da quelle zone, anche se stai bene, devi stare 14 giorni a casa tua. Vive a Milano, ma non c'è scritto la via, però... Te lo volevo dire, ecco. Così. Poi la cosa che ha detto Burioni è terrorizzante, secondo me, per quanto mi riguarda. No, per me, che è l'effetto che ha avuto su di me. Sì. Quando tu hai chiesto com'è la mortalità, le persone più deboli, no? Uno dice, vabbè, io sono in buona salute, rischio meno. No, lui ha detto, l'abbiamo sentito anche i giorni scorsi, sono morte anche persone in perfetta salute. Va bene. Perfetta salute. Ma tu non lo sei in questo momento, quindi io già non lo sono, quindi potrei essere ulteriormente a rischio. Ma il problema è che anche persone, ripeto, in perfetta salute possono essere a rischio. Il medico che è morto in Cina è uno dei due contagiati, i medici morti, era in perfetta salute. Va bene. Quindi non c'è da stare allegri. No, no, allegri no. Ad anche detto di non andare in Cina, insomma, di evitare i viaggi se non sono proprio necessari in Cina. Ah, quello sempre. Ma quello. Sì, vabbè, quello viaggi per l'aereo. Da evitare sempre. Per l'aereo. Certo. Se non è strettamente necessario prendere l'aereo, mai farlo. Mai. Sentiamo Carlo dalla provincia di Milano. Carlo, buongiorno. Buongiorno a voi. Due cose volevo dire. La prima era che, come questa mattina lei ha detto una cosa sbagliata, ma se lei dice che il suo sindaco è Sala, il suo sindaco è Di Stefano, per lei di Sesto. Sì, no, io adesso vivo a Milano, ho la residenza a Milano. Non è più Sesteso come... No, sono Sestese nel cuore, nell'anima, però insomma, vivo a Milano, sono residente a Milano, prego. Va bene. No, poi volevo dire, insomma, ritornando al discorso della politica, io insomma ho 53 anni, quindi diciamo non sono giovanissimo e non sono anziano, però io credo che noi dovremmo veramente ritornare alla sana politica, quella che insomma ci hanno fatto vivere, sì. O quello insomma, che hanno vissuto i miei genitori negli anni 60, dove in 6 anni sono stati capaci di costruire l'autostrada del sole, insomma, da Milano a Roma, passando sulle Alpi, attraversando il Po e facendo un'opera straordinaria. Oggi come oggi, questa politica che è soltanto il muro contro il muro e l'essere contrario a quello che sta adesso, insomma, a governare, non si porta da nessuna parte. Sì, perché se non si fa nulla. C'è il blocco totale. Insomma, io posso dire qualsiasi cosa, posso dire una cosa ottima da fare, ma vengo contrapposto da quello che sta dall'altra parte. Insomma. E questo fa. Va bene, insomma, tornare alla vecchia politica. Devo andare al traffico, sennò sono in ritardo. Tornare alla sana, buona vecchia politica. Guarda qua, smettetela, state terrorizzando. È Manera, ma lui è fatto così. Andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. A te, questo Manera è sempre malato e anche seduto sulla tazza prende i soldi, ma noi siamo proprio dei pirla. Oh. 13.000 euro netti al mese. Adesso c'è un limite. Che immagine stupenda. Allora, lasciamo stare che poco fa ero seduto sulla tazza. Vabbè, ecco, va bene, tanto... ti pregherei di andare oltre. Ma io faccio solo notare, adesso, senza fare nomi, che non sono l'unico che si collega quotidianamente con la app. È vero. Facciamoli i nomi anche Paolo Mieli al mattino. Allora, andate a dire a Paolo Mieli seduto sulla tazza, si collega dalla tazza del suo water Paolo Mieli. No, lo fate con Manera... Io sono più rigoroso io di tanti altri. La rivolta nonostante... di Spartacus, attenzione! Nonostante abbia questa forma, questa influenza severa, come mi ha detto il mio medico di base, io sono ligio, preparo i petti, scrivo, mi alzo, potrei stare a letto fino alle 10, invece mi alzo, vado sulla tazza, faccio colazione con la tazza e poi un'altra tazza. E poi si collega. Porca miseria, altro che... È il sogno recondito di Manera, barricato in casa, in finta quarantena, eccolo lì, esatto. Avrà preso il Leonardo virus, scrive un altro ascoltatore. Bene, beh, vabbè, Leonardo, dai, lì dalla tazza a te, è tutto a voi la linea. Cosa ci ecco, perché no, perché adesso che i 5 Stelle sono un po' in difficoltà, sono cominciati a essere più simpatici. Io purtroppo sono fatto così, quando vedo una persona in difficoltà mi diventa simpatica. Ma sai, allora che su questo siamo esattamente uguale, cioè io appena uno acquisisce potere mi sta sulle balle, ma appena invece cade dico oh poverino. Ieri la stessa cosa, sai che su chi la pensavo? Non c'entra niente. Piontek. Ho detto, ma guarda qua, ma mi dispiace, ma povero Piontek, ma speriamo che torni a fare dei gol, torni... vabbè, vai. Perché l'anno scorso sembrava un fenomeno, tra l'altro, Piontek. Cioè adesso che tutti lo fischiano, mi è diventato simpatico il colpo. Poi chiudi la parentesi, è Suso. Suso l'anno scorso sembrava l'unico fenomeno del Milan. Quest'anno già, quando vengono annunciati i nomi, viene fischiato. Sì, ragazzi, è stupendo. Qui dai 5 Stelle a Suso nel giro di un minuto. Ma dove la trovate una trasmissione così, ragazzi, in giro per il mondo? Vabbè, vai Leonardo, vai. Allora, dalla settimana scorsa, appunto, Luigi Di Maio non è più il capo politico dei 5 Stelle. In sostanza, il succo del discorso che ha fatto è che quando si governa non si è più l'opposizione e che quindi anche il modo di fare politica deve cambiare, che è la palissiana, insomma. Bisogna diventare più pragmatici e fare i conti con la realtà. E così ha risposto anche a quelli della sua stessa parte che lo accusavano di aver tradito i valori del movimento. Ma l'aspetto interessante del discorso di Maio è che si può applicare non solo in politica, ma più o meno in tutti i settori del vivere, in primis in amore. Quando si è innamorati, appunto, si promette amore eterno, attenzioni, cioccolatini, frasi sdolcinate, baci al chiaro di luna. Lui, l'uomo, è sempre pronto ad offrire alla sua donna il maglioncino ai primi accenni di umilità. Entrambi, quando fanno l'amore, partecipano appassionatamente, cercando, oltre il piacere per sé, anche la gratificazione dell'altro. Quando si va a cena insieme, ci si siede sul punto più avanzato della sedia per stare ben attento a quello che dice l'altro. Quando l'uomo va a prendere la propria compagna, le apre la portiera, le fa anche qualche complimento sui vestiti, sul profumo, magari sull'acconciatura. Se appunto consideriamo le stesse persone quando il rapporto è ormai conclamato, cioè quando si governa il ménage quotidiano, non c'è più nulla di paragonabile ai primi tempi, cioè nel discorso di Di Maio, quando si stava all'opposizione e dalle piazze del Vaffa si facevano grandi promesse difficilmente realizzabili. Nella coppia conclamata di governo, diciamo, l'attenzione reciproca è ormai precipitata in un baratro di consuetudine. Le sedie finalmente cominciano a consumarsi anche nella parte posteriore e quando si fa l'amore diventa solo una domanda. Quando si fa l'amore? Una volta ogni tanto, più per dovere che per piacere. Eppure tante volte si resta insieme, anche se tante volte ci si chiede perché. Finché magari non appare all'orizzonte qualche proposta più allettante e allora si passa, per così dire, al gruppo misto. La vita matrimoniale è quindi come la vita di governo, dopo i fasti e l'innamoramento delle piazze di opposizione. Ma anche in altri settori, quando si progetta una nuova casa, il rendering dell'architetto mostra spazi perfetti, ordinati, ognuno con una propria funzionalità. Ma anche ammesso che la si riesca poi a realizzare in modo coerente al progetto, che è difficilissimo, la casa come immaginata dall'architetto dura un giorno, poi diventa un gran casino dove giocattoli, polvere, scaffali aggiunti e attaccati male, e mobiletti improvvisati si accumulano senza un perché. E chi la vive quotidianamente, per non amareggiarsi troppo, brucia di nascosto il progetto originario dell'architetto. La vita di governo è come il soffione della doccia. La prima volta che ti fai la doccia, l'acqua scende regolare, copiosa, col getto dritto che scende verso il basso. Dopo qualche tempo, quando bisogna fare i conti con la realtà del calcare, cioè di governo, il soffione è quasi tutto otturato, scendono 6 o 7 fili d'acqua, storti, che per riuscire a lavarsi bisogna centrare con precisione da cecchino. E quella stessa doccia che prometteva godimento e benessere poi diventa solo un mero strumento per lavarsi, lavarsi male tra l'altro. Ecco, i 5 Stelle hanno fatto i conti con tutto questo, con la realtà. Alla fine Di Maio si è tolto la cravatta, la stessa cosa che fanno i mariti quando rientrano a casa dal lavoro, stravaccandosi poi sul divano e non curandosi della moglie, anche lei ormai disillusa dalle promesse dell'amore. Ma possiamo stare tranquilli, in politica, come nella vita, ci sarà spazio per altri innamoramenti, per altre chimere, per altre promesse difficilmente realizzabili. Bravo Leo! Mi piace questa lettura della politica che fai ogni tanto così, con il sorriso sulle labbra e con uno sguardo alla realtà, molto molto efficace, più di molti editoriali che trovo. Senti un po'. Gli altri che stanno a casa anche loro, no? Ribadisco il concetto, anche loro stanno sulla tazza del water magari quando si collegano, non solo Manera, perché le necessità corporali le hanno tutti, non solo io. Tutti gli organismi viventi, anche qualsiasi, ha un buco per far entrare il cibo e un altro. Okay, per mandarlo fuori. Sì, va bene. Tutto, questa è la caratteristica di tutti gli esseri viventi, non solo di Manera. Allora, mi ha molto colpito, vorrei chiamarlo domani, se non lo chiamano altri, qui in radio, perché c'è la lotta agli ospiti, il sindaco di Dervio. Sai cosa ha fatto il sindaco di Dervio? Dove, vicino a Como, da quale vicino, parte Dervio? No, Como, Lecco? Como, sì. Miriam Lucchetti, ma ho guardato apposta dall'altra parte del vetro, lei che è di quelle parti, sì, ma ha guardato, ricordo. Como! Ha fatto un... Va bene, ho capito. Ha fatto uno spettacolo a Dervio. Ah, in che teatro? No, tanti anni fa, all'Aperto d'estate. Come è andata? È Lecco, cioè, scusa, Miriam Lucchetti è Lecco, ma vergognati, sotterrati, disintegrati. Cioè, voglio dire, mi ha detto Como! Mi ha fatto fare una figuraccia, è Lecco. Infatti io stavo dicendo, è Lecco. Ma anche lì, Como e Lecco, alla fine è sempre... Ma no, non è la stessa cosa, si odiano, figurati. Vabbè, comunque, il sindaco di Dervio, Lecco, ha detto multiamo chi si droga, cioè giuro, cioè vi becchiamo con uno spinello, 1.000 euro di multa. Cioè, io non so se sia questa la ricetta contro la droga, 1.000 euro di multa per chi si droga. Non so, dobbiamo andare al giornale radio. Così per pagare la multa comincia a spacciare anche. Ma ecco. Va Vabbè, che ne, adesso al di là delle battute di maniera, che ne pensate, cari ascoltatori? Riapriamo la seconda ora da qui. Il sindaco di Dervio vuole multare chi si droga. 800 24 00 24. Il segnale orario vi è offerto da Samu Expo, metalmeccanica, plastica e subfornitura. 6-7-8 febbraio, Fiera di Pordenone. Uno, nessuno, 100 Milan. Hi, my name is Stereo Mike. Alfa bene il Cindy De Dervio. Milan, ma quale 1000 euro di multa per chi si droghi? 10.000 euro di multa e lavori forzati, o comunque lavori belli pesanti, usuranti, da spaccarsi la schiena, così poi dopo ci pensano due volte. Ah, mamma mia, mamma. Ecco, il sindaco di Dervio l'abbiamo chiamato alle 10.36 ai nostri microfoni, eh? Il sindaco di Dervio che vuole multare chi si droga. Hai sentito, caro Lentopede? Ho sentito, ma credo che sarà difficile, difficile recuperare quel denaro, insomma. Ma soprattutto, ma voglio dire, ma io adesso, ma se uno, non tutti ovviamente, ma se uno si droga e magari diventa tossicodipendente, ma non pensate che abbia un problema e che sia, come dire, da salvare, da curare, no? No, gli dai soldi, gli dai 1000 euro perché si droga. Come sempre, secondo me, non si può generalizzare e dire tutti i drogati sono così. Sì, ma infatti. No? Vabbè, comunque ascolteremo che cosa ha da dirci. Oh, però tu sei stato terrorizzato da Burioni, anche se Burioni ha detto non dobbiamo essere terrorizzati. No, però ha detto che la situazione comunque è seria, insomma, è seria. Comunque noi in collegamento via Skype credo siamo in grado di collegarci con un italiano che sta in Cina, si tratta di Sergio Colombo. Buongiorno, buongiorno Sergio. Buongiorno, mi sentite? Sì, sentiamo bene, c'è ovviamente un lieve ritardo e ritardo nella voce, ma comunque ci sentiamo. Allora, Sergio Colombo vive a Guangzhou, siamo circa, se ho capito bene, 1000 chilometri a sud rispetto all'epicentro, insomma, di questa epidemia, Wuhan, che è più nel centro della Cina. Allora, Sergio Colombo, ci dica qualcosa da lì di come si vive, cioè non dobbiamo terrorizzare, però non dobbiamo neanche negare che la situazione di epidemia sia seria, o no? Diciamo che la vita qua si svolge normalmente. Ho sentito tante volte parlare di città deserte. Il fatto fondamentale è che in questo periodo dell'anno, oggi è il quinto giorno dopo il Capodanno lunare, le città sono sempre deserte. Quindi è una normalità in questo momento. Per quello che riguarda il fatto che ci sia poca gente in giro, è la normalità. Sì, il governo cinese ha un atteggiamento nei confronti di questo virus che sottolinea la differenza con quello che fu ai tempi della SARS. Sì. Perché ai tempi della SARS fu molto sottovalutato, cercarono di un po' di nascondere la cosa. Attualmente loro invece dicono a tutti quanti: cercate di evitare luoghi affollati, tutte queste cose qui. Ma come diceva anche la Sara Platti ieri, sì, che abbiamo contattato, pratica, che vive a Wuhan proprio. Che vive a Wuhan, nei supermercati è normale, sì, i bambini hanno la mascherina, buona parte delle persone vanno in giro con la mascherina. Ma per il resto l'affollamento si vive normalmente. No, è chiaro, però qui bisogna, come dire, senza appunto spargere terrore, è chiaro che milioni, se non un miliardo di persone che vivono in Cina cercano di fare la loro vita, non è che si possa spendere la vita, però Per dire, notizie di stamattina, la British Airways ha sospeso tutti i voli per la Cina, Starbucks ha chiuso metà dei negozi in Cina, questo leggo dalle agenzie, è stata annullata, abbiamo sentito poco fa, la prova di Coppa del Mondo di sci in Cina. Si dice nessuno vada in Cina se non per motivi indispensabili, insomma, come dire, non saranno tutti impazziti, no, Sergio Colombo? Intere città in quarantena, poi. Esatto. No, le intere città in quarantena direi proprio di no. Questa c'è è l'informazione Wuhan. Che c'è. Solo Wuhan, è un po' sbagliatuccia come informazione. Wuhan sì, diciamo, lì per esempio a Guangzhou no, cioè no, assolutamente no, assolutamente no. L'unica differenza proprio che salta all'occhio è adesso quando si va in metropolitana ti controllano la temperatura prima che entri. Capisce che comunque per tutte le persone vengono controllate prima di entrare in metropolitana? Tutte le persone vengono controllate. Leonardo, qua in Cina, prima di entrare in metropolitana, bisogna passare il bagaglio nello scanner. I cinesi hanno il terrore degli attentati e quindi tutti quanti devono passare il bagaglio e si passa attraverso un metal detector, secondo me è assolutamente inutile, che suona sempre perché tutti quanti hanno in tasca il cellulare. Certo. Però bisogna far passare il bagaglio nello scanner. Certo, tutte le volte che, tutte le volte che si entra in aeroporto, non che si fa il controllo di sicurezza, ma all'entrata passano quelle garzine sui bagagli, certo, tutti quanti i bagagli, per controllare che non ci sia esplosivo all'interno. Allora, questo per la questione di sicurezza, però certo adesso si è aggiunta anche la questione della temperatura, del controllo della temperatura. Anche qui non so quanto possa servire, visto che se c'è un periodo di incubazione, prima ci spiegava Burioni, di 10-12 giorni, cioè durante i quali uno può stare bene, però è portatore di questo virus. Quindi... Sì, diciamo comunque che da quello che si sa, come anche la maggior parte dei coronavirus, da quel poco che mi ricordo di microbiologia dell'università, che comunque il contatto è appunto se qualcuno ti starnutisce addosso. Sì, questo, come diceva sì, anche ieri, se uno è asintomatico e quindi non tossisce e non starnutisce, anche, la vedo anche un po' complicata che possa infettare qualcuno. Il dato di fatto, per dire, le autorità cinesi hanno accertato, leggo sempre le agenzie, 11 nuovi casi di contagio di Wuhan a Pechino e 16 a Shanghai. Per quel che riguarda Guangzhou, mi sembra che, e spero che così rimanga, non ci siano casi accertati. No, a Guangzhou dovrebbero esserci circa, penso, una quindicina. Ah, ci sono. Casi. Ci sono. Non a Wadu, no, dove sono io no, però Guangzhou, tenga conto che Wadu è un distretto di Guangzhou, noi siamo vicini all'aeroporto internazionale, per cui... una cosa velocissima, quando si arriva in Cina e si passa da zona di controllo sanitario che c'è sempre, la temperatura viene presa da tutti, certo, ancora adesso, ma non hanno mai smesso di controllare la temperatura delle persone quando entrano in Cina. Questo avviene. Quindi dal suo punto di vista la vita è sostanzialmente normale dove vive lei? Ma sì, anche perché vede, io attualmente penso di essere non autoferrotranvieri, piloti d'aereo o medici, uno delle 20 persone forse che stanno lavorando in Cina in questo momento, perché io sono qui da solo nel laboratorio, tutti quanti i tecnici sono tutti quanti… Lei è un chimico, ricordiamo, un chimico. Sì, io lavoro per un'azienda, lavoro con un'azienda cinese, e facciamo prodotti chimici per l'industria conciaria. Ok. Per cui tutti quanti i tecnici applicativi e chimici 10 giorni fa si sono volatilizzati, non proprio, ma come soltanto i cinesi sanno fare prima del Capodanno. Certo. Un minuto prima sono lì, un minuto dopo non c'è più nessuno. In ogni caso, noi Sergio Colombo la ringraziamo. Tra l'altro, il bello è anche questo della radio. Insomma, Sergio Colombo è un nostro ascoltatore che ci ha scritto una mail, visto che ci ascolta dalla Cina. Ha ascoltato la testimonianza di due giorni fa di Sara Platto, che è veterinaria e docente universitaria a proprio nella città di Wuhan, quindi nella città da dove c'è l'epicentro, insomma, da dove è stato scoperto questo virus e da dove è partito. Leonardo, ti ha tranquillizzato Sergio Colombo? Sentendo le persone che abitano lì, sì, c'è da stare più tranquilli. Poi sentendo le notizie, no, bisogna capire. È quello che ci diceva Sara Platto qualche giorno fa. Dice: passo più tempo a tranquillizzare in telefonate i miei genitori a casa in Italia, perché leggono e si informano, piuttosto che sono più preoccupata da questo che di quello che succede qui a Wuhan. Ora, bisogna, non so come dire, però non è che siano solo i giornali italiani, perché se ripeto le notizie che abbiamo detto, Starbucks non è italiana, è americana e ha chiuso metà dei negozi, British Airways non è che sono degli sprovveduti e hanno sospeso tutti i voli, direi che forse un pochino di allarme ci deve essere, di precauzione, ecco, precauzione si può dire, Leonardo, precauzione. Soprattutto evitare quello che fai tu, tra l'altro. Che cosa? Ho visto che vai in metropolitana, fingi di starnutire, starnutisci apposta e poi dici: sono appena tornato dalla Cina. Si fa. Tanto tu hai sospeso il segui cinese, io invece tutti i giorni vado da Jessica, la mia amica cinese, e l'abbraccio per dimostrare fratellanza nei momenti di difficoltà. Va bene, andiamo al traffico, dai. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, 10-19 minuti, adesso caro Leonardo, altro che Bar Jimmy. Qui dobbiamo parlare anche di presidi territoriali come le edicole. Io le adoro le edicole, adoro gli edicolanti che fanno un lavoro duro, complicato. E soprattutto, purtroppo, con i giornali che vendono sempre meno, anche difficoltoso. Allora, saluto Giuseppe Marchica, buongiorno e benvenuto. Benvenuto. Grazie, buongiorno a voi. È il segretario nazionale del sindacato nazionale giornalai, quindi Sinagi. Sì. Stupendo, cioè, a me quando dicono: ma che giornalista, sei un giornalaio, molti lo dicono come se fosse una cosa sprezzante, mi dico: ma magari giornalai sono una professione fondamentale, dei presidi territoriali, presidi di quartiere. Il problema è che fanno fatica, ecco. Allora, voi vi siete inventati intanto la notte bianca, cioè oggi in 40 città almeno un'edicola rimarrà aperta fino alle 23, questo per cercare di sensibilizzare su cosa, Marchica? Sì, intanto una precisazione. Questa non è la notte bianca, nel senso che questa è una serata in cui in ogni città un'edicola o due, a Bologna per esempio sono due, ma tendenzialmente noi avevamo scelto una edicola per ogni città, sì, per concentrare in quell'unico punto gli amministratori locali, editori, giornalisti, le autorità, per fare una cosa che di solito si fa in una sala dove uno si alza, chiede la parola, fa l'intervento, si torna, sì, a sedere. Sì, sì. Cioè, noi volevamo fare in modo diverso, conviviale, per spiegare ad autorità e a tutti quali sono i problemi, come potremmo in qualche modo venirne fuori, e lo facciamo davanti a un bicchiere di vino mentre facciamo due chiacchiere. Perché il dato è questo: è vero che negli ultimi 15 anni metà delle 42.000 edicole hanno chiuso? Sì. Accidenti. Ne hanno aperte 3-4.000 dentro supermercati, quindi come numero totale siamo circa 25.000, però delle 42.000 che c'erano nel 2004-2005, metà di quelle hanno chiuso, e quelle erano tutte edicole che vivevano della vendita di giornali e riviste. Ragazzi, però se i giornali e le riviste non vendono, è vero che si vende anche qualcos'altro, però non vendono, cioè, questo è una cosa che, come dire, accomuna tutti, anche i giornalisti sono affranti per questo, però anche se adesso molte edicole cercano appunto di variare, di vendere tante cose, sì, diverse, certo, le famigerate bustone sorpresa per bambini, per le esempio. Bustone sorpresa ci sono sempre state, quelle, sì. No, noi per finire, la seconda parte di questa iniziativa la faremo quando è un po' più caldo, in primavera, e allora quella sarà la vera e propria notte bianca, nel senso che lì chiederemo un po' a tutte le edicole di rimanere aperto la sera, di fare quello che è la funzione, sì, che le edicole hanno sempre avuto, un presidio del territorio, soprattutto nelle periferie, che tutti quanti hanno abbandonato, che invece le edicole in periferia continuano per fortuna a esserci, sì, non in quantità come prima, ma ci sono accese. Sono presenti. No, ma guardi, io infatti ho detto stamattina, io la prima cosa che faccio quando esco di casa, ho la fortuna di avere l'edicola proprio a due passi dal portone di casa, insomma, poi è gestita da un edicolante che, vabbè, lasciamo stare, insomma, potrei dire cose pessime su di lui. In realtà faccio la battuta perché è qui mitico Luca, ti voglio... Luca, ciao Luca. Ciao bestiaccio. Eccoci. Buongiorno a tutti. Ecco, mi saluta così sempre. Ciao bestiaccio. No, a volte uso anche termini di peggiore, se lo sai. Luca in Viale Monza il 43 è il mio edicolante. Ho detto di tacere questo dettaglio, ma vedo che tu no perché io voglio, è il mio edicolante, cioè proprio è mio, è bello Leonardo Manera che tutti dicono è il mio edicolante, Luca è il mio, ed è un presidio, cioè è una presenza fissa, e cioè non guarda, ecco, non so come dire. Io vorrei sapere da Luca se Alessandro Milan è solito continuare l'usanza che c'era di un po' di anni fa, cioè si prendeva il quotidiano e dentro si metteva il giornale tipo Le Ore di nascosto. Ma a parte il fatto che ormai Le Ore sono soltanto ricordi ancestrali, no, non penso che abbia neanche più il tempo di fare una cosa del genere. Il tempo, non neanche il tempo, cioè, quindi non credo che sia più al livello di poter fare cose del genere, almeno da me poi non li prende, non ne ho, quindi ho difficoltà a dire queste cose. Però so che ci mette dentro il tablet, e cosa ci faccio col tablet, non ne ho la più pallida idea. No, ma ti avevo detto, Luca, di sistemare Manera, non di andare contro me. Cioè, insomma, ma figurati, vabbè, scusami. Cosa ti avevo detto questa mattina? No, però per me le edicole sono delle antenne di quartiere. Questo è, cioè, ma questo lo posso confermare. Cioè, se Luca, no, e non succederà mai, chiudesse, ma sarebbe un dramma, ma per tutti. Non è solo chiude l'edicola dove prende. Però, non so, Luca, un esempio. Quante copie del Corriere della Sera hai venduto oggi, stamattina? Fino adesso? Ma siamo su una 35-40 35. Sole 24 ore? Pompa un po', esagera. Gli abbonati ne sono andati via 3. Esagera, aumenta il sole 24 ore. Vabbè, di 10. Cesare, posso anche inventarteli, però. Vabbè, se 3, poi vabbè, niente. Quanti ne ricevo, puoi ben capire che non posso barare. E 10 anni fa? Perché quanti ne vendevi? Ah, oddio, 10 anni fa io ho aperto l'edicola nel 2002 e posso dirti che i numeri erano... Quattro volte tante. Cioè, ti dico, una volta si vendevano a quest'ora le mie 100 copie di Corriere, l'avevo già fatto. Ma senza ridere. Vabbè. Allora sono cambiati. Quando prima si diceva che molti colleghi hanno chiuso, sì, è vero, verissimo. Ma poi invece proporzionalmente c'è qualcosa che si vende più di prima? No? Esatto. Tra i vari articoli che si possono trovare in edicola? No, la risposta è secca, no. No. No. E come, scusa, come si sopravvive? Cioè, nel senso... togliendoti tutto, fondamentalmente. Cioè, ripeto, questo è un lavoro che fai se ti piace stare a contatto con le persone, se ti piace il tuo lavoro. Se no, se fosse soltanto per quello che è l'introito puramente remunerativo, penso che... le edicole chiuse non sarebbero 20.000, ma probabilmente sarebbero quasi le 42.000. E allora chiediamo, Marchica, visto che lei è il capo del sindacato, cosa dovrebbe fare, non so, il governo, cosa dovrebbe fare la politica? Perché di base, se non c'è, uno potrebbe dire brutalmente, se non c'è giro di affari, non è che possiamo, come dire, alimentarlo pubblicamente, no? Voi che dite? No, il giro d'affari c'è ancora. Noi abbiamo tutti i giorni, gli edicolanti italiani hanno circa 3 milioni di contatti con persone. Quindi non è che sia una categoria che si sta estinguendo, perché quando 3 milioni di persone tutti i giorni vanno a trovare il proprio edicolante, insomma, questo è un dato importante. Noi la cosa che stiamo chiedendo, noi stiamo chiedendo diverse cose su diversi fronti. Allora, uno è alla politica, al governo, al Parlamento. Noi stiamo chiedendo di spostare una parte dei finanziamenti pubblici che vengono da sempre dati all'editoria, spostarli sulle edicole, in modo tale che si possa affrontare un anno o due di questa crisi, per dare tempo alle parti sociali, e questa è l'altra richiesta che noi stiamo facendo, cioè agli editori, perché noi non è che lavoriamo per lo Stato, lavoriamo anche per lo Stato, abbiamo degli obblighi di legge sulla parità di trattamento, eccetera, però Noi lavoriamo con i giornali, con le riviste. Sì, sì. E quindi vorremmo. Quindi vorreste una piccola parte del finanziamento che c'è all'editoria anche all'edicolante. All'edicolante. Sì. E in più noi abbiamo un contratto che regola i rapporti tra noi e la Federazione Editori, gli editori in generale, e vorremmo che questo accordo venisse rinnovato e scaduto da quasi 11 anni e sarebbe ora che venisse rinnovato. Noi abbiamo chiesto ovviamente delle modifiche anche sul piano economico, ma da quel versante lì non abbiamo avuto ancora risposte. No, devo dire, i messaggi sono, vedi, Milano ha chiuso qualche settimana fa, sì, l'edicola di via Pisacane, la terza in 10 anni nella zona, non sappiamo dove andare. Ringraziamo anche, saluto a Pesaro a nome degli edicolanti, ci saluto un edicolante che ci sta ascoltando da Pesaro. Ecco, Luca, vuoi rispondere a Leonardo Manera che dice che gli edicolanti, quando soprattutto va suo figlio Beniamino, lo fregano nel senso, dicono: ah, bel bambino, prendi questo bel bustone di figurine. Luca, ci sono dei bustoni molto evidenti, bustoni che attraggono Beniamino e tu, allora, papà, no, adesso non più, quando era piccolino. Tu lo sai benissimo cosa faccio con i tuoi figli, quindi esatto, lo volevo dire. Luca invece è il contrario, dice: se il bambino si avvicina e dice mi dai le figurine, fammi telefonare subito a tuo papà, vediamo che cosa sei autorizzato o no, e lo verifica prima di prima. No, è vero. Ma anche perché poi non solo, se sono in età scolare, prima lo studio, poi i giochi divertimenti. Ma io mi ricordo la mia prima ondata di aperte virgolette bimbi adottati dall'edicola, un mio gruppo di bimbi che alla fine dei quadrimestri mi portavano le pagelle. Avevano più timore dei miei giudizi, certo, da quello di sì, sì. Lui è il vero papà, perché il papà dice: vabbè, dai, prendilo. No, sei andato male a scuola, allora via, forza, no. Tu papà, no, smettila, dagli il premio solo quando prende un bel voto. Ma mi ci avvicino molto, Io invece ho visto alcuni edicolanti che, quando mio figlio andava a chiedere per esempio 5 pacchetti di figurine, l'edicolante diceva: ne ho messi 12, cosa faccio, lascio? Oddio, io non ho mai tagliato le buste a modello di prosciutto, ma non mi sarei mai azzardato a fare una cosa del genere. Vabbè, ma ricordiamoci che Leonardo Manera ieri è andato alla metropolitana di Milano uno di questi giorni e ha chiesto: mio figlio a 11 anni deve pagare, a 10 anni deve pagare il biglietto, e il bigliettaio gli ha detto: sì, deve pagare, in realtà fino ai 14 è gratis. Ma Leonardo Manera, il venditore, lo fai su, come dire, come vuoi. Va bene, io ringrazio Giuseppe Marchica, ripeto, è il segretario del Sindacato Nazionale Giornalai. Ringrazio tanto Luca, Viale Monza 43, dovete andare a comprare tutti qualcosa da Luca, anche se non avete, no? Va bene, Luca, così? Ti odio, lo sai che ti odio, vero? Cioè, regoliamo i conti più tardi, quando arrivo in quartiere. Ciao Luca, grazie. Allora, caro Leonardo, l'edicola è un servizio, secondo me in ogni quartiere dovrebbe esserci almeno un bar di quartiere, un'edicola e un centro massaggi. Queste sono le cose che dovrebbero esserci in ogni quartiere. Cavolo, ma perché parti sempre bene e io ti seguo, sto per dirti adesso stai dicendo una cosa e poi scivoli via nelle mie cazzate. No, nella tua lascivia proprio, insomma. No? C'è Mauro Meazza oggi o no? Guardalo qua. Lui. Sai cosa ne pensa Mauro Meazza del coronavirus? Sei preoccupato perché ha gli investimenti anche in Cina, Mauro Meazza, chissà sì, se. Sì. Sì, lo vedo un po' cupo, effettivamente. Però secondo me poi li sposta in un attimo con un click in Sud America. Ah, questo sì. E via, questo e via. Sì. In un attimo. Dai, andiamo a sentire la borsa. Uno, nessuno, 100 Milan. La cosa affascinante quando si parla di vendite di giornali è che non ho mai sentito i giornalisti dire: ma se se ne vendono la metà, forse dipende da come sono scritti, forse dipende da noi. No, come no? È colpa, come no, del destino cinico. No. Milan, si parla di persone multate per degli spinelli e tu te ne esci con tossicodipendenza, se hanno dei problemi vanno aiutati. Ma l'unico che va aiutato sei tu, secondo me, Milano, ma veramente. Va bene, grazie. Devi essere aiutato, ti mando un saluto comunque. Grazie, se vogliamo essere aiutati in due. Per i giornali, caro ascoltatore, chi mi ha seguito per anni in rassegna stampa, ma anche qui ho sempre detto che i giornali, per esempio, a furia di occuparsi del chiacchiericcio della politica, i retroscena inutili, quello ha detto quello, e io dico sempre, poi ci si lamenta che i giornali vendono sempre meno. Quindi io, Leonardo, ho sempre avuto questa posizione, insomma, non è colpa... D'altra parte... Poi non è solo quello, non è solo quello, l'informazione è diventata con un click, con internet, talmente, come dire, accessibile, che uno magari non compra più il giornale. Ecco. Sì, però i giornali che hanno invece incrementi di vendite sono quelli di gossip, basta andare appunto in qualsiasi edicola per vedere tantissimi, no, giornali di gossip, quindi è, magari è colpa, sì, magari di come sono impaginati i quotidiani, poi probabilmente anche noi abbiamo gusti diversi, vogliamo sapere... con chi si fidanzano i tronisti, ecco, per esempio. Vabbè. Non so, è un concorso di colpa, diciamo così. Esatto. Ma caro Leonardo, eccolo qui, io l'ho citato in apertura di programma e poi ancora la ordinanza comunale firmata dal sindaco di Dervio, provincia di Lecco, per multare con una multa da 150 a 1000 euro chi consuma droga di qualsiasi tipo in luogo pubblico o in spazi aperti. Stefano Cassinelli, buongiorno, ecco, sindaco, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ordinanza che in realtà è già in vigore, scade ad aprile, insomma, però non so, come si sa, quando poi finisce sulle pagine dei giornali fa discutere, c'è stata anche una retata, credo, antidroga qualche giorno fa in una frazione a Dervio. Allora, sindaco, ci spieghi tutto, come mai questa linea dura nei confronti, per esempio, di chi viene beccato con uno spinello o qualsiasi tipo di droga? Allora, Dervio è un paese bellissimo sul lago di Como, peraltro Leonardo Manera lo conosce perché è stato a casa mia tanti anni fa. Abbiamo una amica in comune. A casa sua, esatto, lui non si ricorderà. Lasci perdere, c'è una tabula rasa nel cervello, lasci stare. Vabbè, prego. Non ricordo, può essere. Vabbè. È perché non ci siamo drogati, Leonardo, posso assicurarti questo, che non ci siamo drogati. Sì. Era stato il 92, poteva essere il 92-93, quegli anni? No, eravamo già negli anni 2000. Va bene, sindaco, non approfondisca perché ogni è una pena. Meglio che ci portiamo, sapere. prego. No, scherzi a parte, c'è un problema, nel senso che c'è una recrudescenza del problema droga, molti fanno il paragone agli anni 80 e la popolazione è preoccupata e allarmata. Devo dire che forze dell'ordine, la prefettura, il prefetto Formiglio, così, sono veramente attenti alla questione, stiamo lavorando insieme, quindi va benissimo tutto. Questo è uno strumento in più, perché la popolazione ha bisogno di risposte. Purtroppo colpire gli spacciatori, che sono il male assoluto, diventa difficile, e fare una multa da 300 euro a uno spacciatore che probabilmente non ha nulla da perdere, se ne infischia bellamente. E quindi scoraggiamo chi consuma. Logicamente però... i ben pensanti dicono: ah beh, se uno si fa uno spinello, che cos'è? No, ma io guardi, io prima ho detto la cocaina, no, eroina, ma certo, ma io quello che ho detto prima, e l'ascoltatore ha detto ironicamente: devi farti aiutare tu, è che io dico: cioè, una persona tossicodipendente è anche una persona evidentemente in difficoltà, magari è arrivata a un punto in cui dovrebbe essere più aiutata più che sanzionata, cioè magari non li ha per banalmente quei soldi, non li ha. Sì. Mi permetto, è chiaro, il tossico tipico che abbiamo presente negli anni 80 probabilmente non ce li ha, ma lì ci sono anche tante persone che arrivano con la BMW a prendersi magari la cocaina, o gente che non ha problemi di soldi. E quindi dobbiamo sanzionare. Non si stronca il fenomeno, però giustamente dice non si va dallo spacciatore. Ma Leonardo voleva fare una domanda. No, ma mi viene da pensare se non è in contrasto questa sanzione alla fine amministrativa con la legge che dice invece che il consumo personale non è punibile. Allora, il consumo personale è punibile nel senso che la legge prevede che non ci sono sanzioni penali, ma se uno viene trovato in possesso di stupefacenti viene segnalato alla prefettura, sì. Se è minorenne non può fare la patente, se è maggiorenne ed è nella immediata disponibilità di un veicolo gli viene ritirata la patente, per cui ci sono le sanzioni. Quindi aggiungiamo una sanzione pecuniaria. Ma lo stesso sindaco, credo, amministrativo, sì. In base all'articolo 50 del TUEL, per gravi problematiche legate alla sicurezza, sì, sì, alla salute pubblica, eccetera, abbiamo scelto questo. Sì, c'è da dire che lo stesso sindaco, credo, in un'intervista ha detto: è vero, ci sono alcuni che potrebbero ricorrere al TAR. È legittimo, ci mancherebbe. Qualunque ordinanza si può fare un ricorso al TAR. Noi abbiamo trovato questo strumento con l'ordinanza urgenza contingibile perché riteniamo che sia una battaglia da fare su più fronti. Le forze dell'ordine, ripeto, fanno il loro lavoro, il comune per rispondere ai cittadini. Io veramente ho la fila di mamme preoccupate o di signore che hanno paura di uscire la sera. Ma la preoccupazione, non c'è dubbio, è se lo strumento, se la risposta a questa preoccupazione debba essere questa sanzione, cioè nel senso che anche lei saprà che non è che così si stronca il fenomeno, però dice serve a far dissuadere qualcuno. Ma sono state fatte delle multe a Dervio? Una è già stata fatta perché è in vigore da pochi giorni. E ha pagato questo signore? Pagherà? Cioè, ha tempo per pagare. Ma ci spieghi, diciamo, cos'è stato beccato con uno spinello? Cosa consumava? Beh, no, aveva 7 grammi di cocaina e eroina. Peraltro ha fatto un po' scalpore perché il soggetto in questione è stato accompagnato dalla mamma a comprare la droga. Dalla mamma? Quindi questo forse è un classico caso di, adesso non voglio giudicare, forse è un tossicodipendente. Beh, di sicuro ha dei problemi, tant'è che l'amministrazione comunale, il gruppo Cultura, sta anche portando avanti delle iniziative, degli incontri pubblici, verranno organizzate delle serate con degli esperti, perché non vogliamo solo fare il poliziotto cattivo, vogliamo anche cercare di dare degli strumenti alle famiglie, per cui stanno organizzando degli incontri, il primo sarà a febbraio, con degli esperti nella sala civica, per parlare alle famiglie e dare un supporto, dei consigli non dati dal sindaco Stefano Cassinelli, che non capisce niente di sociologia e di droga, ma da persone esperte che possono aiutare. Non vogliamo solo bastonare, vogliamo cercare di aiutare. Mi colpisce, però adesso non conosco niente di questa storia, ma se una mamma accompagna il figlio a comprare l'eroina e la cocaina, posso immaginare il dramma che ci sia in quella famiglia. Il dramma lì mi chiedo, sì, 1.000 euro di multa, però che cosa abbiamo fatto per togliere questo ragazzo dalla droga? No, allora credo che togliere questo ragazzo, ripeto, non dipende nemmeno dal comune. Il comune può dare degli strumenti, come appunto degli incontri formativi per cercare di dare un supporto alle famiglie. Certo, nel momento in cui si arriva al punto di questa storia qua, è probabilmente difficile pensare anche un intervento. E su questo sono d'accordo. I 300 euro di multa a questa persona probabilmente non risolveranno nulla, non cambieranno nulla. Invece scoraggeranno, e di questo sono convinto, quello che si fa alla pista di coca sabato sera, o che di dire: non vado lì perché rischio che il grammo di cocaina mi costa 300 euro in più. Sindaco, noi la dobbiamo ringraziare. Manera non si ricorda, ha avuto vari minuti. No, mi sono ricordato adesso. Sì. Ma dai. Faticavo a ricordarlo perché appena entrati c'erano tante persone, si sono spente le luci e poi è successo un po' di tutto, per quello che lo ricordavo. Ma non è vero. Non le abbiamo chiesto il partito, sindaco? Non le ho chiesto se è partito, lista civica? Siamo una lista civica. Di che orientamento ce lo dica, se no. Guardi, davvero, ci sono vari orientamenti, c'è persone anche di sinistra, sono un paio di persone che hanno sempre votato PD, sono consiglieri comunali e quindi ognuno ha la sua idea politica, ma questa è una battaglia che non è politica, secondo me. No, ma era vero, visto che sindaco, in genere ci si presenta Stefano Cassinelli, si dice il partito, non gli ho chiesto e glielo dicevo per completezza di informazione. Va bene, la ringraziamo, Stefano Cassinelli, sindaco di Dervio. Questo ovviamente fa discutere, magari discuteremo anche nei prossimi giorni, anche perché adesso c'è il traffico. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Uno, nessuno, 100 Milan. Bravo sindaco, bravo sindaco, avanti col proibizionismo. Milan, ma soldi per la droga invece li trovano, ma che cavolo dici? Vabbè, vabbè, dai, domani mi sa che dobbiamo tornare su questa vicenda perché, insomma, sicuramente scatenerà un bel dibattito, un bel dibattito. Ma io adesso ho una fame, oggi ho fatto una colazione leggera, vorrei mangiarmi un montone intero. Mamma mia, che volgarità, che volgarità. Oh, Bernardo Ferruccio Ronchi Baronchelli, nostro... Chef emozionale. Allora, come lei sa, non mi piace essere chiamato chef, preferisco altri termini di riferimento. Infatti c'è chi mi chiama vita, chi mi chiama leggenda, chiama Re Sole. Re Sole. Buongiorno Re Sole, signor Luigi 14. Re Sole. Buongiorno, signor Re Sole. Illumino le esistenze, ma anche perché per fare le fatture mi siedo su un trono dorato. Ah, cioè quando deve fare la fattura proprio lì sul trono, vabbè. Se così cominciano a entrare in quello stato d'animo, capire che non sarà una passeggiata. Sono sudditi, allora. Vabbè. Allora, ogni sera nella mia dimora culinaria, il desco di Nicia Pannocchio di Castelbiondo, accolgo i miei ospiti e mi preparo a realizzare i loro desideri, finché non mi dicono: ci sposiamo il secondo sabato di maggio, vorremmo prenotare la sala. Oh, giusto. Che volgarità, che volgarità. Poi c'è ancora qualcuno che si sposa: prenotiamo la sala col piano bar. Mamma mia, mi viene da piangere la sola idea. Il piano bar, il fotografo che fa il servizio. Ogni volta devo spiegare che il mio non è un ristorante. No. È un'utopia gastrocritica. Ecco, che supera la materia, e non posso superare la materia se devo applaudire al coro bacio bacio o assistere a operazioni di dubbio gusto come il taglio della cravatta. Lei le ha viste? Sì, le cravatte, ma non si fa più, dai, non si fa più. Fanno bene a tagliarle, ecco, fanno bene a tagliarle, con cattivo gusto. Ma adesso mi lasci spiegare. Sì, prego. I nostri avventori partono dal cibo, se così vogliamo chiamarlo, e percorrono la linea verticale che riporta allo spirito. Quando lo raggiungono, trovano una rivelazione epifanica. Sì. Qual è? Qual è? Lo scontrino con il conto. Ecco, appunto. 300.000 euro. Non dovrei parlare di prezzi perché è volgare. Ma ho visto un broker di Wall Street che con un paio di telefonate provocava una crisi economica mondiale per riuscire a pagare il coperto. Che banalità, che tuffo nella mediocrità. Eppure, guardi, l'ho ripetuto tante volte, che al desco di Nietzsche non si viene per mangiare, no. Si viene per far risuonare nel palato la melodia del piacere. Se vuoi mangiare un polpo alla piastra, vai alla pescheria sotto casa. Noi invece prendiamo il polpo, lo facciamo sedere sulla sedia da parrucchiere, gli stiriamo i tentacoli uno a uno con la piastra, dopo aver fatto una maschera protettiva tonificante a base di ginkgo biloba per non rovinarli. Emozionante, emozionale, tutto un altro vivere. Ma ora ho sentito invocare il mio nome, sono qui a donarvi una delle mie creazioni. Il titolo è di questa mia creazione: sì. Il futuro è oggi. Il futuro, allora, è oggi. C'è un piatto. Ingredienti. Un piatto. No, è la creazione. La creazione. Allora, ingredienti: una goccia d'acqua, essenza di polpa di limone e una punta di foglia di menta. La menta che spunta rigogliosa dalla profondità della terra è la spontaneità della natura che può tutto. Il limone che viene coltivato dalla notte dei tempi per il suo profumo inebriante rappresenta l'intervento dell'uomo e l'acqua, se va sen dire, è l'eterno divenire delle cose, il simbolo della vita. Allora, bene, come si svolge questa creazione? Prendete la goccia d'acqua. Una sola goccia, altrimenti la creazione diventa volgare. Potete anche aiutarvi con il dosatore delle gocce per il mal d'orecchie. Allora, poi incoraggiate l'essenza di polpa di limone a tuffarsi nell'acqua. Incoraggiate. Ecco. Forza, devi incoraggiarla. Forza. Devi dire, è tiepida, vai. E l'essenza di limone cosa fa? Sì, si tuffa nella goccia d'acqua. Sì. Magari prima preoccupate, no, è tiepida, buttati. Quindi adagiate sopra questa goccia d'acqua con l'essenza di polpa di limone, sì, una foglia di menta. Sì, sì. Qualcuno potrebbe dire che assomiglia a una limonata, no? È una provocazione. No, è un manifesto ideologico contro il cambio climatico quando si beve la limonata, quando fa caldo. E quindi questa creazione è un moto rivoluzionario contro il surriscaldamento del pianeta. Il futuro allora, è oggi. Il futuro è oggi. Sì, sì, sì. Potete provare anche a casa vostra, sì, oppure venire da me, l'esco di Nice, la mia dimora culinaria, potete prenotare sul sito e lasciare un piccolo acconto che è anche un bel gesto per l'ambiente, perché io donerò lo 0,00000001 all'Amazzonia. No, però, il piccolo acconto che è di, così per indicare... Ma facciamo un... 70.000, dai. 70.000 euro. Guardi, Re Sole, c'è un messaggio che, sì, ci arriva dall'America. C'è un'ascoltatrice dall'America, dal numero, lo posso vedere. C'è un bar, ristorante a Buffalo, New York, che si chiama Nice's, col genitivo sassone. Chiede a Re Sole Baronchelli se appartiene a un suo franchising in qualche modo. Nice's. Ma stiamo pensando di ampliare la nostra attività. Naturalmente, vabbè, il desco è una cosa ancora molto... Magari siamo un po' più popolari per l'America, solo Nietzsche. Sono Nietzsche, va bene. Vita, ci sentiamo e la ringraziamo sempre. Sua... Prossimamente. Sì, grazie, grazie. Dio c'è anche, ricordiamo che alcuni la chiamano così. Grazie di essere stato qui con noi con questa creazione e ci troviamo domani. Uno, nessuno,